24 marzo 2006, ore 21, Gigi D'Agostino, dal vivo, alla discoteca Nachtschicht Innsbruck, Grabenweg 74, località Innsbruck, Austria. Show di Gigi D'Agostino dal vivo, sabato sera 25 marzo 2006, ore 21, discoteca Millennium, Geverbe Parkstrasse 22, località Krems, Austria. M2O. Ascoltando. Wherever. Love Transistor. Cammino del Gigi D'Agostino. È il folklorista. Stai a capire? Sì, ho capito. We'll be right back. cammino di Gigi D'Agostino. Titolo: The Final Countdown. Artista: Il folclorista. Preciso. D'Agostino. Per votare basta cliccare www.gigidagostino.com. Pom pom porom porom pom pom porom porom pom pom pom porom pom pom porom pom pom pom porom pom pom pom porom pom pom. Titolo: Gigi Wons. Eh? Gigi Wons. La cosa. Siento che sta trasportando.

Celestino di Scopare. Momento creativo. Assaggio l'aperitivo. Assaggio l'aperitivo. Momento creativo. Il cammino di Gigi D'Agostino. Assaggio l'aperitivo. L'aperitivo di oggi è... Gigi D'Agostino. Ascoltando. Passetto. Eh? Passetto. Note storte.